Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Vi ricordate il drammatico autunno del 2008 e chi se lo scorda, quando in un terribile weekend di settembre venne dichiarata la bancarotta del colosso finanziario americano Lehman Brothers? Ce lo ricorderemo a lungo, anche se i mercati finanziari sono decisamente più sereni di quel periodo. Perché ce lo ricorderemo a lungo? Perché in quella bancarotta finirono, loro malgrado coinvolti, molti italiani che in forma diretta o indiretta avevano investito in titoli Lehman. Qualcuno aveva polizze vita il cui rendimento era agganciato a titoli appunto della banca americana e il default della banca aveva prospettato loro l'intera perdita del capitale e invece le società coinvolte nella distribuzione di questi prodotti hanno interamente risarcito i clienti. Ricordiamo a titolo di esempio quello che ha fatto Poste Vita, ma lo ha fatto anche il gruppo Mediolanum, è successo anche per le polizze CMP distribuite da Unicredit. Situazione inevitabilmente diversa invece per i detentori di obbligazioni dirette della banca, perché per questi risparmiatori, investitori, il procedimento per il recupero del capitale investito è stato, anzi è, più lungo e complesso. Però ci sono delle novità anche per questi creditori. Quali sono queste notizie, queste novità? Lehman Brothers Treasury, che è la controllata olandese della banca americana finita in default, sta cominciando a rimborsare i suoi creditori. L'operazione prevede la distribuzione di quasi 4 miliardi di dollari che la società ha ricevuto negli ultimi due anni dagli amministratori della capogruppo americana Lehman Brothers Holding, in quanto lei stessa creditrice della ex appunto società americana. Insomma, sembra qualcosa di molto complesso, ma i diretti interessati sono sicura che avranno capito molto bene quello che sta accadendo. Per se così non fosse, oggi noi tentiamo di spiegarvi il funzionamento dell'operazione appunto di restituzione di questo denaro, quali sono gli accorgimenti e anche le procedure da mettere in atto qualora la banca non vi avvisasse che stanno arrivando questi soldi. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, per le vostre domande appunto in diretta. Se non volete telefonare potete scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook, siamo anche su Twitter. Su Facebook il profilo è salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina la collega del Sole 24 Ore, che ha scritto molto in questi giorni su questo tema, perché la prima tranche dei pagamenti da parte appunto della filiale olandese, chiamiamola così, di Lehman Brothers è partita proprio ieri. Laura, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Laura Serafini del Sole 24 Ore di Roma, e con noi naturalmente abbiamo bisogno anche, come dire, di tutto un apporto anche giuridico e legale su questo argomento. Con noi questa mattina il professor Raffaele Romano, economista dello studio giuridico economico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, ho già ricordato tutte le modalità come sempre per interagire con noi in diretta o attraverso la modalità scritta. Direi di la borsa, la faccio molto rapidamente perché siamo un po' in ritardo questa mattina sui tempi. È una giornata negativa, Milano sta perdendo l'1,18%, i titoli peggiori, ne abbiamo già parlato nel corso del giornale radio, la Popolare di Milano -8,25% perché c'è un probabile arresto per il procedimento di trasformazione in SPA per il gruppo, che è molto osteggiato da molti soci anche dai dipendenti, e Snam Rete Gas -4,89%, e qua c'è stata un collocamento dell'11% del capitale da parte dell'azionista di riferimento appunto Eni, e il titolo si sta adeguando al prezzo del collocamento e perde circa il 5%. Diciamo che per la borsa è tutto. Fabio, mandiamo subito la scheda sul tema di questa mattina. Sono passati più di 5 anni dal default della banca d'affari americana Lehman Brothers e già nel 2008 era chiaro che la gestione del fallimento e del rapporto con i creditori avrebbero richiesto tempi molto lunghi e procedure molto complesse. Chi ha perso i suoi risparmi per via del crack che ha innescato la crisi sistemica, i cui strascichi si sentono ancora oggi, ha dovuto aspettare pazientemente per vedersi restituire, seppur in parte, quanto investito. Proprio ieri, Lehman Brothers Treasury, la controllata olandese della banca americana, ha cominciato a rimborsare i suoi creditori. È prevista al momento la restituzione di oltre il 74% del valore riconosciuto ai crediti su obbligazioni, in un'operazione che prevede in tutto la distribuzione di quasi 4 miliardi di dollari, cifra che la società ha ricevuto negli ultimi 2 anni dagli amministratori della capogruppo statunitense, di cui lei stessa era a sua volta creditrice. L'operazione interessa la maggioranza dei risparmiatori italiani rimasti coinvolti. Era stata infatti proprio la controllata olandese a emettere la gran parte delle obbligazioni finite a casa nostra, per un totale di circa 6 miliardi di dollari. Complessivamente, con l'operazione partita ieri, dovrebbero tornare indietro agli sfortunati risparmiatori del bel paese circa 700 milioni di dollari. In tutto dovrebbero ricevere circa il 30% del valore nominale dei bond. L'amministratore della banca olandese ha riconosciuto come controparti, abilitate a registrare i crediti e a veicolare i rimborsi, le banche presso le quali i titoli sono depositati. Gli istituti non sono tenuti a comunicare ai clienti i tempi e le modalità di accredito. Per chi aspetta la restituzione, sarà quindi bene controllare il proprio conto e, se non sarà stato accreditato nulla nel giro di qualche settimana, chiedere chiarimenti. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Per intervenire in diretta, in alternativa potete scriverci al 349 238 6666. Laura Serafini, allora da ieri è partita questa prima tranche di pagamenti, un'operazione che prevede la distribuzione di circa 4 miliardi di dollari. Chiaramente dovremmo fare questa trasformazione anche in euro per capire a quanto dovrebbe ammontare per ogni singolo detentore appunto di obbligazioni il capitale che viene restituito. In ogni caso non è esattamente, forse ho dato un'informazione non corretta all'inizio del programma, non è esattamente il primissimo rimborso in assoluto che arriva ai detentori italiani di obbligazioni Lehman. No, non lo è, e in questo senso diciamo c'è un passaggio della scheda che è stata eletta, che comunque era piuttosto, come dire, precisa. C'è un passaggio che va declinato un pochino meglio, proprio per, come dire, non creare poi delle aspettative che non saranno esattamente, come dire, corrisposte, perché il 30% del valore del credito che verrà poi alla fine rimborsato è una stima che è stata fatta e che ho fatto anche con Raffaele Romano, che è ospite con noi, perché poi l'esatto quantitativo percentuale del rimborso del credito finale lo si saprà probabilmente nel giro di 1 o 2 anni, e dipenderà molto poi dai piani di distribuzione che verranno annunciati. Ecco, a questo proposito va detto che le società, diciamo i gruppi che sono coinvolti in questa operazione, sono due. Abbiamo parlato di Lehman Brothers Treasury, che è la società olandese, che è di fatto una società veicolo olandese creata dal gruppo Lehman per emettere le obbligazioni in Europa, e buona parte delle obbligazioni vendute ai risparmiatori italiani sono passate da questa società. Poi abbiamo Lehman Brothers Holding, che è la capogruppo americana di Lehman, che ha iniziato, è la prima che ha iniziato il suo piano di ristrutturazione, che ha iniziato il piano di rimborsi, e la società olandese ha dovuto aspettare di ricevere dei soldi dalla società americana per poter poi a sua volta distribuire, perché di suo questa società olandese non aveva assolutamente nulla. Questo spiega perché l'America è partita già da 2 anni, mentre l'Europa, quindi l'Olanda, sta partendo in questi giorni. Ecco, ma plausibilmente, diciamo, i titolari di obbligazioni che risiedono in Italia sono tutti riconducibili al veicolo olandese, o ce ne sono anche invece di sottoscrittori di obbligazioni che invece sono state emesse direttamente dalla casa madre americana, Laura? Allora, ci sono dei sottoscrittori, diciamo che sono una minoranza rispetto a quelli che hanno i bond Lehman, diciamo, emessi dalla società olandese, ma ci sono anche dei risparmiatori che hanno comprato titoli emessi direttamente dalla società americana. Allora, la società americana per questi prevede una percentuale di rimborso diversa da quella prevista per le società, i risparmiatori che hanno titoli della società olandese, perché sul caso olandese abbiamo un 12,2 circa per cento che viene riconosciuto dalla società americana, che si va a sommare a un'altra percentuale che poi conosceremo nel tempo della società olandese, e che per oggi, cioè per quello che è partito ieri, è pari al 12,2% circa. Quindi questi obbligazionisti qua già stanno a quota più o meno 24 sostanzialmente, mentre quelli che hanno un credito diretto con l'America hanno una percentuale che è leggermente inferiore, sulla quale poi magari sarà più torneremo, preciso sì. Anche il collega. Infatti, perché c'è da considerare anche il rapporto tra le valute di riferimento. Vado allora al professore Raffaele Romano per chiarire anche un altro aspetto importante. Ammettendo di essere un detentore di un'obbligazione Lehman acquistata attraverso appunto il veicolo olandese, così chiaramente ho seguito magari un po' in maniera superficiale le vicende di questi anni e mi accorgo adesso leggendo i giornali che sta partendo questo piano di indennizzo, di rimborso appunto parziale. È scontato che tutti i detentori di obbligazioni ricevano queste somme parziali in questi giorni, professor Romano? Sì, io direi di sì, perché in realtà appunto la società olandese ha stabilito la distribuzione di questo primo riparto e dei riparti anche successivi attraverso il circuito bancario. Quindi tutti coloro che hanno dossier e titoli presso le banche, che a loro volta hanno fatto la registrazione del credito anche per conto di coloro che hanno questi dossier, riceveranno, hanno cominciato a ricevere direi da ieri a pioggia questo primo riparto pari a 12, media ponderata al 12,27%. No, ma io gliel'ho chiesto perché lei appunto ha detto se hanno fatto la registrazione del credito, vale a dire se hanno fatto l'insinuazione le banche, ecco. nel caso della Lehman olandese ha provveduto la banca, quindi da questo punto di vista non dovrebbero, non ci sono, anzi non ci saranno problemi, salvo poi verificare che gli accrediti vengono effettuati nei tempi giusti, perché sovente, come nel caso americano, capita che magari passano a volte anche mesi prima dell'accredito, quindi bisogna direi stare un poco anche dietro a questa vicenda. Quindi questi 20 giorni che abbiamo detto sono totalmente indicativi, insomma, non è detto che siano corrispondenti alla verità. Per cui diciamo, ecco, teoricamente se la banca presso la quale io intrattengo il mio conto titoli, appunto, è la banca con la quale ho fatto l'operazione di investimento nel titolo Lehman negli anni passati, adesso teoricamente dovrebbe intermediare anche questo mio recupero, ma ci sono dei presupposti che il risparmiatore deve aver seguito, la famosa insinuazione al passivo riguarda, allora c'è un ragionamento, come diceva la brava Laura Serafini, cioè qui bisogna disaccoppiare tra la Lehman olandese e la Lehman statunitense, cioè la casa madre e la Lehman Brothers Holding. La Lehman Brothers Holding riconosce una percentuale di pagamento, quindi recovery, anche sui titoli emessi dalla olandese. Perché? Perché è stata garante di quei titoli. E sta già riconoscendo, per ora ha riconosciuto già oltre il 9%, dovrà arrivare al 12,2%. Per la Lehman americana c'è stata l'insinuazione al passivo, quindi per la parte afferente alla garanzia c'è stata, a cominciare da gennaio 2009, l'insinuazione al passivo. All'epoca la si poteva fare a livello individuale oppure a livello collettivo. In una prima fase sono partite le insinuazioni a livello individuale, dopodiché le banche, rendendosi conto delle difficoltà relativamente all'insinuazione individuale, hanno preso un po' in mano le redini della questione e hanno cominciato a fare le insinuazioni collettive. Diciamo che secondo me l'hanno fatto non credo che siano sfuggiti i risparmiatori, anzi forse il problema si è creato più all'estero piuttosto che in Italia. Dobbiamo anche ringraziare il Sole 24 Ore che ha fatto un'opera di informazione da questo punto di vista, ha dato, passatemi il termine, anche un po' una sveglia alle banche che all'epoca hanno provveduto quindi a un certo punto a fare. Diciamo che con questa iniziativa, certo, le banche si sono anche un po' tutelate, perché magari avevano anche cominciato a capire che qualche sottoscrittore intendeva intraprendere un'iniziativa di carattere legale, e quindi probabilmente il sistema ha detto facciamo fare un'insinuazione a passivo complessiva, così facciamo anche firmare qualche liberatoria con la quale appunto evitiamo che poi in futuro appunto il sottoscrittore del titolo si rivalga contro di noi con una iniziativa appunto, come dicevo, di natura legale. Salva Danaio. Wall Street ha cominciato a raccogliere i pagamenti dei mutui per le case e a rivendere parte di quei pacchetti a degli investitori che hanno reinvestito e hanno fatto tanti soldi. Così gli investitori hanno cominciato a dire: avanti, dateci altri soldi. Gli istituti di credito avevano conferito prestiti con buon credito, ma poi hanno raschiato il fondo abbassando i criteri di aggiudicazione. Se prima serviva un valore creditizio di 620 e una caparra del 20%, adesso basta un valore di 500 e nessuna caparra. E l'acquirente, la persona comune, pensa che gli esperti sappiano quello che fanno e si dice: se la banca vuole prestarmi dei soldi, vuol dire che possono permetterselo. Le banche sanno bene che le garanzie che poggiano sulle uova sono rischiose. Così, per contenere i danni, le banche hanno stipulato polizze assicurative. Se i mutui fossero falliti, le assicurazioni avrebbero pagato. Default swap. Le banche che hanno assicurato le potenziali perdite hanno eliminato i rischi dai libri contabili. L'AIG pensava che il mercato immobiliare sarebbe cresciuto, invece è sceso. I prezzi delle case sono scesi. Il poveraccio che aveva comprato la casa dei suoi sogni ha visto il tasso del mutuo esplodere, l'importo delle rate crescere, il default. I mutui cartolarizzati affondano e l'AIG liquida gli swap. Tutti, in tutto il mondo, nello stesso momento. L'AIG non riesce a pagarli e va in rosso. Ogni banca assicurata con lei lo stesso giorno conta le stesse ingenti perdite. E anche le banche vanno in rosso. Così crolla tutto. Tutto il sistema finanziario. E che cosa dirò quando mi chiederanno perché non abbiamo messo delle regole? Nessuno le voleva. Stavamo facendo troppi soldi. E insomma, per chi non si ricordasse come si è arrivati alla crisi dei mutui subprime che è esplosa nell'estate del 2007, poi un anno dopo, una crisi che ha portato alla clamorosa bancarotta della banca americana Lehman Brothers, abbiamo riproposto questo stralcio del film Too Big to Fail, troppo grande per fallire, regola che non è valsa invece appunto proprio per il colosso finanziario americano che ha dovuto dichiarare la sua disfatta a metà settembre del 2008. In quel fallimento ovviamente ci finirono di mezzo molti investitori in tutto il mondo, tra cui anche un bel gruppo di titolari di obbligazioni di Lehman Brothers italiani, che in questi giorni, facciamo un salto di oltre 5 anni appunto, che in questi giorni stanno ricevendo una tranche di rimborso appunto di questo vecchio investimento. La Lehman Brothers Treasury, che è la controllata olandese della banca americana finita in bancarotta, sta cominciando a rimborsare i suoi creditori. Questa tranche in pagamento da ieri, probabilmente non tutti la vedranno immediatamente, diciamo che probabilmente ci vorranno un po' di settimane prima che si veda questa prima cifra, diciamo, di rimborso. Con noi questa mattina per spiegare il punto della situazione Laura Serafini, collega del Sole 24 Ore, e il professor Raffaele Romano, economista dello studio giuridico e economico. Adesso una domanda di un'ascoltatrice per ritornare poi ai nostri appunto ospiti. Maria Rosa da Torino, buongiorno. Grazie, buongiorno e complimenti per la trasmissione, io la sento sempre. Grazie Maria Rosa, ci dica. E quando devo andare via mi fa male, quando devo uscire. Io ho un problema, che ho delle azioni argentine, dei bond come li chiamano, e praticamente dall'epoca che l'Argentina... Maria Rosa, mi scusi, io la devo interrompere, io pensavo che lei avesse dei titoli Lehman Brothers, non parliamo di Argentina oggi, che è una vicenda che evidentemente ci ha fatto spendere tantissime puntate, però non è il tema di oggi. Se la richiamiamo dopo in privato e ci spiega la sua situazione, mi promette che ce la posso lasciare adesso? Io volevo che mi dicesse solo se si risolverà quella cosa lì e più o meno a che punto siamo. Ci ritorniamo prossimamente, Maria Rosa, non è il tema di questa mattina, lì c'è tutta un'altra partita molto complicata, c'è un piano di ristrutturazione che molte famiglie italiane, è stato definito dal governo argentino 2 anni fa, che molti risparmiatori italiani hanno firmato, per cui gradatamente anche lì si stanno attendendo appunto i rimborsi sulla base della ristrutturazione che Buenos Aires ha pattuito appunto con gli investitori di tutto il mondo. C'è poi l'altra partita invece del famoso ricorso all'ICSID, questo tribunale internazionale che è una strada decisa da un numero minore appunto di persone, e quindi quella è un'altra strada che però è piuttosto lunga. Torniamo a Lehman Brothers, Maria Rosa, adesso ci sta parlando il mio Marco Lombardo, sentirei allora Aurelio da Bari. Aurelio, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. Lei ha titoli Lehman o qualcos'altro? Sì. Complimenti per l'ottima trasmissione. Grazie Aurelio, ci dica. Allora, senta, io ho comprato a suo tempo il Lehman Brothers, da un veicolo olandese. Ho già avuto in 2 tranche, una ad aprile l'anno scorso, una a ottobre, una parte. Il mio problema invece è un altro. La banca, che è San Paolo, mi ha chiesto a febbraio dell'anno scorso di firmare una lettera in cui ci si rivolgeva al tribunale olandese perché il tribunale olandese riconosceva due tipi di obbligazioni. Mm-hmm. Alcuni si chiamassero signores, che avevano diritto addirittura a un rimborso del 100%, e l'altro invece che avevano un riparto, il solito riparto, che credo al massimo arriva al 27-28%. Ecco, di questo doppio tipo di obbligazioni non se ne sa nulla, anche perché San Paolo, malgrado le mie email, ormai non risponde più, anzi non mi chiude proprio il sito. Aurelio, lo sentiamo se i nostri interlocutori sanno qualcosa di questo suggerimento che alcune banche avrebbero fatto appunto ai propri clienti. Laura, ti risulta? No, però mi pare che la posizione dell'ascoltatore sia un po' particolare, perché ha prodotti differenziati. Sinceramente di questa iniziativa del ricorso al tribunale olandese non ne ho contezza, non so se per caso. No, sì, adesso sentiamo Raffaele Romano. Senz'altro, sarebbe però appunto interessante, magari indagheremo ulteriormente sul fatto che è stata fatta addirittura firmare una lettera al nostro amico appunto di Bari. Professor Romano. No, allora, non credo che vi siano titoli emessi dalla olandese per i che abbiano un carattere di maggior pregio. Assolutamente no, secondo me no. Quindi adesso bisognerebbe capire bene questa vicenda. Ad ogni buon conto, immagino che la lettera che è stata firmata all'epoca dal nostro radioascoltatore riguardava la registrazione del credito per il tramite della banca presso la Lehman olandese, e questo per dare il voto sul piano di ristrutturazione, perché ci sono state a un certo punto a ridosso tra l'altro doveva essere credo piuttosto che febbraio, verso gennaio, le banche hanno inviato ai vari obbligazionisti una lettera in cui chiedevano registrare il credito in nome e per conto dell'obbligazionista anche ai fini del voto. Serviva ai fini del voto la registrazione del credito. Credo che queste più o meno sono le lettere che sono state fatte firmare dalle banche. Però su questioni particolari, titoli particolari, non mi risulta. Io conosco abbastanza bene il piano di composizione della Lehman olandese. Non mi risultano riconoscimenti del 100%. Piuttosto su alcuni, forse la confusione può esserci sulla tipologia di credito, perché ci sono alcuni titoli che sono stati insinuati al 100% del valore nominale, che poi su questo, che quindi hanno diritto ad un rimborso integrale, totale, praticamente. No, vengono insinuati al 100%, però quindi erano parvali, quindi non erano particolari titoli strutturati sui quali viene riconosciuto una percentuale pro quota rispetto all'incasso che la Lehman olandese sta avendo dagli Stati Uniti. Alcuni titoli in realtà sono stati la Lehman olandese li ha riconosciuti già a un valore inferiore, addirittura al 40%, sul quale comunque poi viene riconosciuto un ulteriore percentuale sull'altro 40%. Allora poi magari daremo perché il 12,27% che è partito ieri è una media ponderata, cioè riguarda la percentuale su titoli per i quali è stato riconosciuto un valore al 100%, un valore di insinuazione, non di recovery, e titoli per i quali è stato riconosciuto un valore addirittura inferiore, ma sempre un valore di insinuazione. Allora guardi, sì, adesso tra un po' vado in pausa, professor Romano, poi magari ritorniamo da lei proprio su queste percentuali che ci stanno generando inevitabilmente un pochino di confusione, perché vorrei anche arrivare a capire quanto alla fine di tutto questo rimborso, che è graduale, quindi potrebbe andare avanti ancora per anni, quanto dovranno ragionevolmente aspettarsi appunto i detentori di obbligazioni. Magari se riusciamo facciamo un esempio con una cifra a fronte, non so, di 1.000 euro investiti, quando al termine di tutto questo riparto, quanto dovranno appunto aspettarsi i detentori di queste obbligazioni al termine di questo procedimento. 800240024, numero verde per le vostre domande. Magari ancora riesco a far fare un'altra battuta a Laura Serafini. Con questa nuova tranche che arriva in questi giorni, Laura, credo che agli ex obbligazionisti italiani dovrebbero finire circa 700 milioni di dollari? Ma anche qui è una stima che abbiamo fatto noi calcolando sostanzialmente il totale delle insinuazioni al passivo della società americana fatta da creditori italiani, l'avevamo stimato intorno ai 6 miliardi di dollari, per cui poi facendo le dovute proporzioni la tranche di oggi doveva essere attorno ai 700 milioni di dollari, però bisogna tenere presente che nel totale, nel calderone delle insinuazioni al passivo fatte a suo tempo, quindi quei 6 miliardi, ci sono dentro anche altre categorie di creditori, cioè le società italiane che sono creditori su prodotti derivati, cioè è veramente difficile andare a capire quanto vale obbligazioni. Infatti, no, ma poi tra l'altro tra un po' ti farò sentire anche un'altra tipologia ulteriore di creditore, che è Salvatore da Milano, che credo sia stato un fornitore degli uffici di Lehman a Milano. Adesso non so se potremmo aiutarlo questa mattina, ma sarà sicuramente interessante raccontare e sentire la sua esperienza. Salva Danaio. Ci sono 8 trilioni di dollari di cartaccia in giro per il mondo che si basano su quell'equazione. La formula non serve a niente. Quanto ci vorrebbe a ripulire i nostri libri contabili? Che cosa? Ci sono 3 modi per andare avanti in questo campo: essere i primi, essere i più furbi o truffare. Stai vendendo qualcosa che sai che non vale niente. Se lo fai, ucciderai il mercato. Vendiamo ad acquirenti consenzienti, semplicemente per riuscire a sopravvivere. Ricordatevi questo giorno. Ricordatevelo bene. Se oggi vinciamo, ci saremo giocati per sempre il nostro lavoro. Non ci sto, ho chiuso, sono fuori. Mi serve una testa da dare in pasto agli azionisti. Se andremo a fondo, ci andremo insieme. Lavoro in questa compagnia da anni, ho visto cose che non immagini neanche. Sei sicuro che sia la cosa giusta da fare? E allora, questo era invece Margin Call, che era un altro film che ricostruisce le vicende di Lehman Brothers. Saluto l'ascoltatore che mi dice precisione, bellezza, precisione, perché il film precedente si intitolerebbe, secondo lui, Too Big to Fall, cadere. No, invece è Too Big to Fail, troppo grande per fallire, quindi lo vada a rivedere lei, perché è un film anche abbastanza noto, almeno per gli addetti ai lavori che si sono divertiti a vedere nella ricostruzione cinematografica quanto è accaduto a Lehman Brothers. Mamma mia, quanto siete precisi qualche volta, ed è anche giusto, ve ne ringrazio. Allora, Laura Serafini, il Sole 24 Ore, ti faccio sentire allora quello che è accaduto a Salvatore da Milano. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Ci dica, rapidissimo, grazie. Niente, io con altri siamo dei fornitori che davamo praticamente a Lehman un servizio di autonoleggio gente quando dovevano spostarsi, no? Ci hanno contattato, abbiamo avuto degli scambi di mail, però chiaramente non sappiamo quando è che verremo risarciti del nostro insoluto. E volevo chiedere se poteva valere la stessa cosa come per chi aveva delle azioni, se uno può coinvolgere la propria banca per questo tipo di contatto. Temo proprio di no, Salvatore. Tra l'altro, lei ha detto azioni, in realtà chi aveva azioni Lehman non credo proprio che possa recuperare alcunché, esattamente come è successo per i titolari di azioni Parmalat, perché chi partecipa al capitale di rischio ha naturalmente appunto un rischio diverso rispetto a chi invece investe in titoli obbligazionari. E quindi adesso magari Laura Serafini, se vuoi commentare questo caso. Sì, allora hai ragione tu quando dici che sulle azioni, ahimè, non si recupera nulla, purtroppo quella è capitale di rischio, come tale ti prendi il rischio e non ottieni nulla. Per quello che riguarda questo creditore, ovviamente è una categoria di credito diversa da quella dell'obbligazionista, che è inquadrata in un certo tipo di contratto, ha una sua procedura e ha delle sue garanzie, però chiaramente anche il fornitore ha delle sue garanzie nella possibilità di recuperare un credito, bisogna vedere chi viene prima nel recupero del credito. Comunque penso che sempre il professor Romano potrà essere più preciso, che anche per lui doveva valere il procedimento dell'insinuazione al passivo, perché valeva per tutte le categorie di creditori. Allora adesso gli faccio mettere in coda anche questa risposta al professor Romano, però sentirei anche Alex dalla provincia di Torino, perché dice ha acquistato titoli legati a Lehman che ora valgono zero, quindi mi chiedo che tipologia di investimento abbia fatto. Alex, buongiorno. Buongiorno, io ho comprato dei titoli, un certificato legato con 4 banche, uno dei quali era la Lehman Brothers. C'era una clausola se uno di questi qui andava in default sotto una certa cifra, si perdeva tutto. E quello che è successo, infatti volevo sapere se si riesce a recuperare qualcosa in questo caso qua, nel senso, quindi se un certificato lei dice, appunto, il cui rendimento, la cui prestazione era legata all'andamento di quattro titoli, uno di questi quattro era Lehman. Ci metto Mauro dalla Massa Carrara, così terminiamo tutti i nostri ascoltatori, faccio fare una risposta appunto più completa al professor Romano. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. No, perché avevo dei titoli obbligazionari della Lehman Brothers, sì, con le poste, però, che me l'hanno, ho visto che è fallita, l'hanno trasformati in titoli postali. Sì. Se lo stesso hanno diritto a rimborso. Vabbè, ma lei qualcosa c'ha, Mauro, voglio dire. Quantomeno sì, c'è stato. L'hanno trasformati in titoli postali, ecco. Basta. No, tra non l'altro. È che hanno dato dei rendimenti e niente. Allora, io che tra l'altro del 2015, invece del 2012, sì, sì, devono scadere, ne hanno trasformato. Lei aveva praticamente le vecchie polizze di Poste Vita che poi sono state oggetto appunto a questa riconversione. Che io non ho acquistato delle obbligazioni della Lehman. No, credo che la procedura per quello che riguarda il suo caso sia terminata qua, probabilmente nel 2015 appunto potrà evidentemente liquidare questo investimento che ha una vita diversa rispetto a quello di cui parliamo questa mattina. Professor Romano, abbiamo messo insieme un sacco di cose, quindi le chiedo. Dunque, per quanto riguarda l'ascoltatore che ha fornito dei servizi praticamente alla Lehman, credo che i servizi siano stati tuttavia forniti alla Lehman Italia, quindi alla Lehman Brothers S.p.A. Adesso bisogna capire, mi pare che questa sia in liquidazione, quindi il rapporto non è tanto con la società di diritto olandese piuttosto che con la società di diritto statunitense quanto con la società Lehman di diritto italiano. Certo. Professore, chiudo tra un minuto, le chiedo un po' di sintesi, sì, mi rendo conto che avremmo bisogno di un'altra ora, sì, ma non ce la facciamo. Poi per sì, quanto riguarda invece l'altro ascoltatore, relativamente penso che si tratta di titoli strutturati, sì, con qualche sottostante lì. Esattamente. Quindi bisogna capire sottostante è in realtà l'emittente di quel titolo strutturale. Per la parte del sottostante avrebbe dovuto fare l'insinuazione a passiva direttamente o tramite banca, quindi su quella parte di sottostante Lehman ci sta il recupero che stanno avendo tutti gli obbligazionisti. Quindi bisogna insomma interloquire con l'emittente e capire, certo, bene. Alex che ci cosa, scriva, come si è mosso l'emittente, esatto, rispetto alla Lehman. Per cui lui dice che vale zero. Terzo invece le poste, vabbè, io spero di aver dato poste, la risposta. Sì, lei ha dato perfettamente la risposta. E quindi ecco, no, per Salvatore appunto deve aspettare che vada a scadenza questo, non è un'obbligazione. Allora, io vi ringrazio, so che ci sarebbero altre cose da dire, ma magari ci ritorneremo più avanti su tutti questi temi, il tempo è sempre tiranno. Grazie a Laura Serafini, al professor Raffaele Romano, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori oggi in assistenza tecnica. Torniamo domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.